Ingrid. Gli alberi e le siepi che separavano i giardini erano nudi e spogli. La temperatura rasentava lo zero. Non aveva idea che la strada fosse così vicina a casa sua. Aveva dovuto trattenere l'impulso di controllare come si chiamava la donna di cui doveva uccidere il marito. Magari era qualcuno che conosceva. Qualcuno che aveva incontrato al supermercato o che aveva figli nella classe di Lovisa. Si calcò ancora di più il berretto di lana sulla fronte. Le case dell'isolato avevano le finestre decorate con stelle dell'avvento. Tutto sembrava indicare che ci vivessero persone normali, per bene. Eppure, c'era almeno una donna che odiava suo marito a sufficienza da essere pronta a ucciderlo. E forse anche più di una. I quartieri residenziali come quello erano carceri femminili senza muri, in cui le donne erano tenute prigioniere dall'amore e dal senso del dovere verso i figli. Ingrid non avrebbe ucciso un uomo, avrebbe liberato una donna, così come lei era stata libera dopo la morte di Tommy.